emozionante per me, già che, come penso ormai sappiate tutti, adoro il calcio. E stasera sono con una delle protagoniste, anzi probabilmente con l'emblema del calcio italiano femminile, Carolina Morace. Carolina, benvenuta. Grazie. Tu sei qui di passaggio a Bruxelles in occasione della presentazione di un libro, ahimè, che ricorda eventi tragici, cioè quelli dell'Eisel. Sono quindi molto, molto contenta di ospitarti qui a Bruxelles. Hai vinto 13 campionati, hai segnato tantissimo, attaccante proprio veramente nell'animo. Eppure c'è ancora chi sostiene che lo sport non è fatto per noi donne. Quanto è stato difficile per te il tuo percorso di atleta? Ma io non credo che ci sia qualcuno che sostenga che lo sport non sia per le donne. Ormai, insomma, lo sanno tutti quali sono i benefici che lo sport porta al fisico, alla salute di qualsiasi genere, uomo o donna che sia. Se poi si pensa a paragonare gli sport maschili a quelli femminili, questo è un errore di stupidità, perché c'è una forte differenza tra fisiologica tra uomo e donna, quindi sono paragoni che non possono essere fatti nella maniera più assoluta. È ovvio che la donna è meno potente, meno veloce, su questo nulla viene contestato, ma il gesto tecnico, insomma, dovrebbe essere lo stesso, a pari opportunità di crescita dei giocatori e delle giocatrici. Tu hai cominciato a giocare a calcio alla fine degli anni 70, hai esordito in nazionale nel 1978 contro la Jugoslavia in una città Mekara, Napoli, allo stadio San Paolo. Secondo te com'è cambiato in questi anni il calcio femminile? Ma purtroppo in Italia è cambiato pochissimo. Io tra l'altro ho allenato per 5 anni la nazionale italiana. Quando mi sono accorta che non c'era la volontà di far crescere questo sport, ho lasciato e sono andata ad allenare tra l'altro il Canada, dove dal 13° posto siamo arrivati al 6° posto del ranking della FIFA, però lì è un paese dove lo sport viene considerato per ambedue i sessi, mentre in Italia purtroppo abbiamo una federazione miope che non recepisce le direttive della FIFA, perché Blatter sono 15 anni che dice il calcio è donna, e quindi in tutti gli altri paesi la tendenza è quella di crescita, mentre in Italia la tendenza è quella di un calo, anche perché molte giocatrici di calcio a 11 si dedicano appunto al calcio a 5, che è uno sport più facile. Insomma, non ci sono né progetti né investimenti per il calcio femminile in Italia. Nel resto del mondo, noi abbiamo visto recentemente mondiali e olimpiadi, gli stadi sono praticamente pieni, quindi va bene nel mondo, va male in Italia. E che cosa possiamo fare secondo te per sensibilizzare, per migliorare questo contesto? E parlo poi effettivamente come persona notevolmente interessata. No, secondo me in Italia speranze, finché rimangono le stesse persone che sono ormai anni che gravitano nel mondo del calcio, è chiaro che la volontà non è quella di cambiare, quindi o si cambia radicalmente tutto e si comincia a mettere qualche giovane e soprattutto qualche ex calciatore a capo della federazione, perché solo così si potrebbe avere un cambiamento nella considerazione del calcio femminile. Anche allenato, e forse sei stata la prima, correggimi se sbaglio, ad allenare anche una squadra di calcio maschile. Che cosa ci racconti in merito? Così come per ogni giocatore, ogni allenatore, sono difficili i primi 20-25 giorni in cui ti devi far conoscere, poi se hai le competenze e la personalità giusta sono cose assolutamente che si possono fare. Io ancora adesso sento alcuni dei giocatori che ho avuto, tra i quali Liberani, che adesso ha smesso, ma lo stesso Baiocco, insomma, che hanno avuto anche brillanti carriere. E tra l'altro è più facile, perché insomma per i ragazzi che giocano e che arrivano tra i professionisti c'è tutta una scuola calcio che parte dai primi calci, che arriva fino alle prime squadre, quindi trovi il giocatore che è molto più preparato rispetto alla giocatrice. Quindi questo è un discorso tutto sommato comune sia al calcio maschile che a quello femminile, tutto sommato ci sono caratteristiche che ahimè si assomigliano. Com'era la tua relazione col presidente Gaucci? Sono molto curiosa, perché sai, un personaggio abbastanza dinamico. So che adesso lui sono uno degli allenatori che stima di più, perché non... Ma io credo che si possa parlare con un presidente come Boniperti che ha giocato a calcio e che sa di che cosa parla, a parlare con Gaucci che sarà anche un imprenditore, però con il calcio tatticamente e tecnicamente non ha un grande feeling, solo che lui nella sua gestione delle squadre di calcio ha sempre trovato allenatori che si adeguavano alle sue volontà di cambiamenti in campo, cambiamenti tecnico-tattici. Io non mi sono adeguata e quindi ho deciso di andare via, però ripeto, oggi il rapporto è, so che lui parla benissimo di me, anche perché sa di non capire di calcio, quindi automaticamente parlava male degli allenatori che lo seguivano, perché come facevano a non capire che non ne capiva nulla. Raccontami ancora un'altra curiosità: quando hai dovuto abbandonare il calcio qualche anno fa, poi hai anche avuto modo di essere una commentatrice televisiva. Qual è stato il tuo primo effetto? Che cosa hai pensato in questa nuova veste, in questa veste di commentatrice? No, che era la continuazione di quello che stavo facendo. In fin dei conti, per me guardare le partite è una sorta di aggiornamento, perché è chiaro che un conto vederle dal vivo, un conto vederle in televisione, però niente di particolare, anche perché insomma per commentare le partite uno deve commentare quello che vede senza avere preconcetti, pregiudizi. Io tra l'altro non sono tifosa, ma mi piace vedere le partite, quindi e giudico quello che vedo, partendo poi dal presupposto che chi gioca in Serie A merita rispetto, perché insomma il calcio, lo sport è uno delle poche attività in cui la raccomandazione non serve assolutamente, insomma, cioè non esiste. Ci vogliono altri tipi di qualità per poter giocare a calcio. E c'è un'emozione, c'è un ricordo che vorresti condividere con i nostri ascoltatori nei tuoi anni di carriera di calciatrice? Due in particolare. I 4 gol che ho segnato a Wembley, perché diciamo è un record, rimarrà tale perché poi lo stadio di Wembley è stato abbattuto e ricostruito, quindi questo è un record che non può essere preso da nessuno. E poi il giorno che ho smesso, dopo aver vinto comunque la finale scudetto, cenavo con la squadra, ovviamente tutte sapevano che quella sarebbe stata la mia ultima partita. Quando stavo per andare via mi sono alzata da tavola e tutte quante si sono alzate ad applaudirmi. Quella è stata un'emozione veramente grande. Lo posso immaginare. Hai progetti in pentola per il momento, progetti sportivi, oppure hai completamente lasciato? No, io ho lasciato agosto dell'anno scorso la guida del Canada. Ora sono nel mercato a livello internazionale. In Italia non mi interessa allenare le donne, quindi aperta verso il mondo delle donne in qualsiasi altro paese che non sia l'Italia. In Italia, se venisse qualche offerta da parte del calcio maschile, ben venga. Un consiglio ai giovani calciatori, calciatrici in erba? Ma intanto sono due cose completamente diverse, perché per le calciatrici sappiamo già che il sacrificio porterà fino a un certo punto al successo, mentre per i ragazzi sicuramente una cosa che secondo me è brutta da vedere ed è anche un po' così, un po' patetica, è vedere le interviste dei giocatori e vedere che conoscono 5 vocaboli e che usano solo quelli. Cioè, allora credo che per chi fa sport una delle cose migliori sia sicuramente continuare a studiare, perché si ha il tempo per farlo. E allora bisogna capire che insomma per essere appagati anche nella propria vita, ma a 360 gradi, forse un po' di cultura fa bene, non dico tanto, però un pochino. Napoli Juve oppure per lo scudetto? Napoli Juve, io direi la squadra sorpresa, e poi soprattutto se riesce a prendere anche un grande attaccante può essere la Fiorentina, però attenzione anche alla Lazio che sta facendo un bel campionato. Ebbene sì, noi ci auguriamo veramente che poi a vincere sia il migliore. Siamo alla fine di questa nostra intervista, vorresti indirizzare un saluto oppure un messaggio ai nostri amici all'ascolto? Ma soprattutto agli italiani emigrati qua, io ho avuto la stessa esperienza in Canada, perché sono stata in Canada per 2 anni e mezzo, e so quanto sia importante per loro avere comunque qualche legame con il nostro paese, quindi un grande in bocca al lupo, ma insomma siamo soltanto a 2 ore d'aereo, quindi... E poi forse adesso l'Italia non è neanche così spettacolare, forse è meglio, ecco, vivere fuori e andare in vacanza in Italia. E chi lo sa. Carolina, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un'ottima serata questa sera, ricordiamo, per la presentazione del libro Isella, la verità di una strage annunciata. Ti ringraziamo ancora e ti auguriamo tutto il meglio. Grazie. A presto.